Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 5 novembre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV. Concludiamo la nostra settimana, anche oggi con notizie dal carcere per il carcere, e qui con voi ci siamo sempre io che sono Caterina Bombarda e Antonella Cortese. Ciao Antonella. Bentrovata Caterina, ciao a tutti. Per questo programma che va in onda sempre su Teletricolore, Lepida TV e Radio Città Fujiko. Oggi parliamo di un bellissimo progetto che è stato inaugurato a Roma, ed è una casetta, Antonella, una casetta che si chiama Mama ed è il modulo per l'affettività e la maternità nel carcere femminile di Re Bibbia a Roma. E chi si è occupato della progettazione di questa struttura se non il famosissimo Renzo Piano, che ha inaugurato questo modulo dicendo: il carcere è un luogo dove dobbiamo dare affetto, questa piccola casa deve avere una vita felice, una casa così non è stata mai scritta sui libri. Quindi vi è stata questa inaugurazione, sono intervenuti anche la rettrice della Sapienza all'Università di Roma, Antonella Polimeni, il presidente della Facoltà di Architettura della Sapienza, Orazio Carpenzano. Che bella notizia, Caterina, veramente meravigliosa. E adesso immagino che il Mama comincerà finalmente la sua vita con le ospiti detenute e con i loro figli. Sì, la casetta, diciamo, è terminata nel 2019, poi congelata a motivi del lockdown, e comincerà ora la sua vita ospitando a rotazione le detenute con le loro famiglie, alle quali verrà affidata qualche ora di normalità, anche per pensare al dopo, per fare una prova di futuro, ecco. Pensate che questo piccolo fabbricato, una casetta tutta rossa di 28 metri quadrati, quindi tutta piccolina, è stata quasi interamente montata dai detenuti che lavorano nella falegnameria della casa circondariale di Viterbo. Quindi senti, per capire un po' meglio, è un piccolo spazio adiacente il carcere, nato per restituire alle detenute madri, diciamo, una sorta di normalità dei sentimenti, giusto? È così, Antonella. Infatti anche in precedenti puntate vi avevamo raccontato il problema degli spazi detentivi dedicati a persone recluse madri con i figli. Pensate che in Italia su 60.000 detenuti e 4.000 donne sono soltanto due le case famiglia protette, una a Roma e l'altra a Milano, e mentre gli istituti di custodia attenuata, i cosiddetti ICAM, in Italia sono soltanto 5. Quindi, data la scarsità di strutture sul territorio, molte detenute scontano la propria pena lontano dall'ambiente di provenienza, convivendo quotidianamente con una duplice colpevolezza, cioè quella dovuta al reato commesso e quella derivante dalla consapevolezza di non poter svolgere un ruolo portante nel nucleo familiare per crescere i propri figli. Ed è interessante a questo proposito cosa dice Renzo Piano. Lui dice: tra i temi importanti che riguardano la nostra società, quello del carcere è uno dei temi più delicati, perché è un luogo di passione, apnea, attesa, un po' come lo sono gli ospedali. Poi dice: mi rendo conto che all'interno dei grandi sistemi del carcere questa non è una gran cosa, è una scintilla, ma le scintille contano. Se madri potranno incontrare i loro figli in questo luogo e far risalire in superficie sentimenti, sarà una cosa buona. Anche il progetto più piccolo può avere una vita felice, e io mi auguro che questa minuscola casa abbia una vita felice e che possano esservi tante di queste scintille. Quindi per Renzo Piano la casetta è modesta nelle dimensioni, ma grandiosa nelle ambizioni. A Roma si è scelto di dare concretezza a un progetto, certo di rammendo, fra virgolette, all'interno del carcere, che è il luogo di separazione per definizione, dove a dominare anche la cultura dell'isolamento, purtroppo, ma con questo progetto, ecco, è nata una scintilla. Ma concludiamo il nostro venerdì con Michael Jackson, che lo sai, Antonella, proprio per allacciarmi al tuo venerdì animalesco, lui amava talmente tanto gli animali che il suo migliore amico era uno scimpanzé, e dopo averlo salvato da un centro di ricerca sul cancro nel 1985, Michael decise di prendersene cura personalmente e chiamò questa scimmia Bubbles, e lui e Bubbles diventarono inseparabili e molti dicono anche che indossassero gli stessi vestiti. Quindi ascoltiamo invece Earth Song, che è una ballad gospel tra le più famose di Jackson, in cui lui affronta un tema a lui molto caro, che è quello della salvaguardia dell'ambiente e degli animali. Ascoltiamola e ci rivediamo tra pochissimo. What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Rieccovi, ben ritrovati, come vi anticipavo prima per il nostro venerdì animalesco su Euduradio TV. Antonella, parlaci dell'animale di oggi. Allora, guarda, volevo fare un omaggio a un nostro amico che in questo momento è in Egitto, mi riferisco a Ignazio De Francesco, e pensando a lui ho pensato anche agli animali dell'antico Egitto, tant'è che oggi vi parlerò proprio di loro, perché come sapete la civiltà egizia era caratterizzata da una forte religione politeista basata appunto sull'adorazione di un gran numero di dei. E la raffigurazione di queste divinità riempiono le pareti e i geroglifici dei templi delle piramidi, dato che a loro erano attribuiti poteri immensi. Possedevano anche un grande legame con la natura, venendo spesso rappresentati con sembianze di animali. Quindi, salutando il nostro Ignazio dall'Egitto, passaci in rassegna gli animali sacri dell'Egitto. Allora, guarda, premesso che alcune specie erano persino considerate delle divinità e possedevano abilità uniche, erano molti gli animali venerati come dei e venivano edificati addirittura numerosi templi e statue in loro onore. E scopriamo almeno i primi cinque animali sacri dell'Egitto. Il primo, tu non l'immagini, ma il coccodrillo, che è uno degli abitanti più famosi del fiume Nilo e conosciuto fin dall'antichità. Il coccodrillo rappresentava il dio Sobek ed era molto venerato dagli antichi egizi. Molti esemplari di questo enorme rettile venivano persino mummificati. Questa divinità era il simbolo della fertilità e del potere assoluto del faraone. Per alcuni egiziani morire nelle fauci di un grande rettile era un onore. Alcuni venivano persino tenuti in casa come animali domestici e anche oggi i pescatori eseguono diversi rituali prima di salpare con le loro barche per andare a pescare o per evitare appunto di incontrarne uno. Il secondo animale di cui vi voglio parlare è il falco. E questo uccello rappresenta il dio Horus ed è un altro degli animali sacri dell'antico Egitto, sicuramente tra i più famosi, ed è considerato il creatore della civiltà. È legato ovviamente al cielo, alla guerra e alla caccia ed era il figlio di Iside e Osiride. Da Horus deriva la leggenda dell'occhio come simbolo popolare, che ha caratteristiche magiche, purificanti e curative. La storia indica che durante un combattimento con Set, suo zio responsabile tra l'altro della morte di suo padre, perse l'occhio sinistro, che fu sostituito da un altro con poteri magici. Dovete sapere però che in natura il falco è uno degli uccelli più veloci del pianeta, grazie alle sue ali sottili, e la specie conosciuta come falco pellegrino può raggiungere addirittura i 360 km orari quando vola in picchiata. Un altro animale, vabbè, questo lo sai benissimo perché ne abbiamo parlato anche in passato, un altro animale sacro è il gatto. indubbiamente il più famoso tra tutti gli animali sacri dell'antico Egitto, perché era considerato l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra. I faraoni concedevano loro funerali degni di un nobile e si diceva che fossero esseri dotati di un'immensa spiritualità. Nella mitologia egizia la dea Bastet aveva la testa di gatto e proteggeva l'armonia delle case nei templi, tenendo lontani gli spiriti maligni. Era spesso invocata, tra l'altro, a favore di donne incinte, neonati e malati. Poi passiamo a un altro animale che invece non ti aspetteresti, che è lo sciacallo, che è associato ad Anubi, il dio dei morti, e il protettore degli imbalsamatori. Questa divinità accompagnava gli spiriti dei defunti al cospetto di Osiride, che, pesando i loro cuori, decideva se ammetterli in paradiso. Infatti, su uno dei piatti della bilancia veniva posta la piuma di Maat e il cuore del morto, che doveva essere più leggero di essa per poter andare in paradiso. Nella vita reale lo sciacallo è un predatore appartenente alla famiglia dei canidi, la stessa appunto dei cani e dei lupi, e si colloca allo stesso livello della catena alimentare dei coyote. Può correre più di 15 km orari grazie alle sue zampe lunghe ed è più attivo durante il crepuscolo. Non mancherà in questa lista lo scarabeo, vero Antonella? Figurati se manca lo scarabeo, impossibile! L'ultimo degli animali sacri dell'antico Egitto di questa lista, appunto è legato al dio Khepri, il sole del mattino, una delle manifestazioni di Ra, il padre di tutti gli dei. Lo scarabeo appare in tutti i templi, nei papiri e tra i gioielli, infatti ci sono i braccialettini con gli scarabei anche, no? Dato che veniva usato appunto come amuleto. La leggenda ha a che fare con lo scarabeo stercorario, che all'alba crea e fa rotolare una pallina di cerco con le sue zampe. E gli egiziani collegavano questa sfera al sole che sanciva l'inizio di ogni attività per questo diffusissimo insetto, e in questo modo lo rappresentavano con un cerchio sulla testa, come una specie di piccola aureola. E tra i tanti animali sacri dell'antico Egitto possiamo menzionare anche la mucca, dea Hathor, il leone, dio Aker, lo scorpione, dea Serket, e il serpente, dio Apopi, e il toro, dio Api, e infine l'ippopotamo, che è la dea Tueret. E per rimanere un po' il clima egiziano, ascoltiamo la famosissima Ya Enna, che è una canzone egiziana tradizionale, cantata da un gruppo misto etno-catalonia nel 2016. Ascoltiamola, è molto bella questa versione. Rieccovi, ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro Radio e TV. Continuiamo la seconda parte della nostra trasmissione con i due ospiti che sono con noi da alcuni giorni. Loro sono Laura Fabbri e Pietro Corazza, che hanno dato vita a gennaio di quest'anno a un progetto locale, qui nella nostra città di Bologna, presso il villaggio del Fanciullo, chiamato Progetto Identità in Movimento, dove interagiscono diverse presenze e servizi rivolti a bambini, giovani e famiglie. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di come è nato il progetto, i suoi obiettivi, un progetto che è cambiato, che si è modificato in base anche alle esigenze delle persone che hanno partecipato. Oggi parliamo di idee per il futuro e quindi vi chiedo allo stato attuale come state lavorando e se avete intenzione di continuare. Allora, attualmente l'equipe si sta impegnando per la raccolta del materiale video e audio, perché appunto durante questi incontri noi eravamo registrati con i ragazzi sia dalla telecamera, che ha ripreso i volti, le attività, sia da un registratore che teneva traccia di quello che ci si diceva. E quindi alla fine di questo percorso ci sarà un documentario che racconterà il progetto, un documentario realizzato da un educatore dell'equipe del villaggio dei cortili del villaggio del Fanciullo. E oltre a questo documentario realizzato appunto dai due educatori, ci sarà una pubblicazione. E in questa pubblicazione verrà raccolto le riflessioni, la narrazione, le frasi dei ragazzi e delle ragazze, come è cambiato il progetto, una descrizione del contesto. E quindi noi stiamo lavorando a questo in questo momento. E l'idea per il futuro è quella, visto la curiosità dei ragazzi nei confronti della telecamera, è quella di dare loro in mano questa telecamera, quindi non essere più gli spettatori o comunque i soggetti ripresi, ma essere loro i registi. Bello. E quali figure del territorio pensate sia utile coinvolgere per allargare l'utenza e anche l'utilità di questo progetto? Sarebbe molto utile, per quello che ha appena detto Laura, quindi fare un documentario che non sia girato da qualcuno di noi, ma mettere in mano la telecamera ai ragazzi, qualcuno che dia supporto e anche insegni a fare bene. Loro sanno fare i video ovviamente a livello amatoriale, però è una cosa diversa pensare, realizzare un video fatto bene, montarlo, farlo con una certa progettazione dietro e non in modo così improvvisato. Quindi sicuramente qualche esperto di videomaking sarebbe molto utile, è un'abilità che spesso non si insegna a scuola, ma che è sempre più utile perché diciamo, è uno strumento che continuamente utilizziamo sempre di più. Altre figure professionali sicuramente estremamente utili, che già ci sono, ma di cui c'è maggiore bisogno, sono educatori ed educatrici. E un'altra questione su cui abbiamo riflettuto: sarebbe importante avere per educatori ed educatrici figure che offrano un sostegno e una supervisione, in modo che chi svolge il lavoro educativo non sia abbandonato a se stesso, ma abbia dei punti di riferimento con cui confrontarsi e ci sia un tempo dedicato a questo. Certo, e c'è qualche aneddoto, qualcosa che vi portate nel cuore dopo questa esperienza di cui siete andate molto fieri e di cui vi ricorderete, insomma, quando lo raccontate vi commuovete ancora? Ma secondo me sicuramente un episodio che a me ha molto toccato è stato durante l'esplorazione che abbiamo fatto a Montesole, dove siamo stati con il gruppo di ragazzi e ragazze. Fuori a dormire nella ospiti della famiglia della piccola Annunziata dei frati di Montesole, e lì praticamente c'è stata la sera, dopo gli incontri che abbiamo fatto insieme, un momento nato spontaneo davanti al fuoco in cui i ragazzi hanno iniziato loro stessi a fare delle domande a noi e a farsi delle domande a vicenda che riguardavano appunto le proprie abitudini quotidiane, i propri segreti, proprio con un clima, un'atmosfera di calore positivo, di vicinanza, di affetto, insomma, anche proprio delle cose dentro di sé che nessuno di noi aveva chiesto di condividere, quindi è stato evidentemente frutto di uno stare bene insieme, quindi questo lo porto nel cuore. Chiaramente facendo un progetto basato sull'identità in movimento, anche voi avrete ragionato sull'identità. È chiaro che è un progetto che ha riguardato in primis loro, ma ha coinvolto sicuramente anche voi. E se io vi chiedessi allora in questo momento che idea vi siete fatti dell'identità, cosa mi rispondereste? Gran questione, nel senso che un po' avevamo l'idea già in partenza che l'identità non fosse una cosa statica, ma fosse una cosa per cui ognuno di noi è composto di tante parti, mutiamo nel tempo, mutiamo a seconda delle situazioni, però anche lì poi mettersi concretamente a rifletterne ovviamente ti cambia sempre. E per esempio ci siamo anche interrogati molto sul nostro ruolo di educatori, educatrici, sul perché ci interessava fare questo progetto, cioè interrogarsi quali sono davvero le nostre motivazioni, cos'è che ci spinge, sono domande risolte per noi, perché ci sembra interessante proporle a loro, quindi no, molta, anche appunto come abbiamo già detto in precedenza, molto un interrogarsi sui nostri modi di procedere. Abbiamo iniziato in un certo modo, ma forse dobbiamo cambiare. Quindi, non so, più che idee sull'identità, domande che continuano ad andare avanti, anche domande sulle domande, perché è utile farsi queste domande, come è utile farsele, qual è il modo migliore per farsele insieme. Non so, Laura. Sì. Infatti un altro aneddoto è stato un momento di condivisione fra me e Pietro, che ci conosciamo da 28 anni, ne abbiamo 29, nel senso che siamo cresciuti insieme, e ci siamo ritrovati veramente a conoscerci ulteriormente con questo progetto, facendoci delle domande su ma perché facciamo questo lavoro, perché vogliamo fare questo progetto, e ci siamo conosciuti ulteriormente. Quindi questo sicuramente è anche stimolante per chi lo fa, per chi si mette in gioco come operatore. E quindi sì, poi l'identità è una questione in continuo ricerca della verità di se stessi. È un bello sfondo, comunque, un bello orizzonte, perché è un progetto che ti stimola a pensare a questo. Quindi è stato un progetto molto con i piedi per terra, perché quando si pensa all'identità si pensa a qualcosa di astratto, magari di ideologico, invece voi avete dato l'inizio a qualcosa che fa molto il confronto con le persone, soprattutto avete parlato di coinvolgimento di persone, ragazzi stranieri ma anche italiani, quindi è stata molto interessante, no? Confronto sulle identità che possono essere anche diverse, giusto? Sì. Sì, sì, certo, assolutamente. E anche fra di loro, no? C'era inizialmente questa ricerca di gruppettini che si assomigliava per genere, per età, per anche identità culturale. Invece a Montesole, per esempio, eravamo tutti insieme, eravamo tutti e 14 insieme a pensare insieme, quindi c'è stato anche un allargamento del gruppo su questo, meno differenziato, più uniforme. Pensando a progettazioni future, avete delle idee? Ma idee, appunto, a me piacerebbe continuare a collaborare con Insight, perché comunque è stata una realtà associativa che mi ha proprio anche stimolato sulla questione della ricerca e dell'azione insieme. E poi ci sono delle persone molto preparate, molto disponibili e che hanno uno sguardo verso il giovane di valorizzazione e di riconoscimento. Quindi credo sia un ottimo attore sociale. E poi anche il comune, mi piacerebbe fare cose insieme, quindi questo progetti comunque che vadano a valorizzare i ragazzi e le ragazze, che li vedano come risorse per il territorio. Quindi sì. Diciamo che potremmo sperare in un'identità in movimento parte 2. Sì, assolutamente. Una questione sicuramente importante è la continuità nel tempo, non fare progetti spot che durano poco e si concludono lì, ma davvero con la continuità e dedicandoci tanto tempo, siamo abbastanza convinti, abbiamo già iniziato a vederlo, che germogliano un sacco di cose positive. Io vi ringrazio, avete fatto un racconto di questa identità in movimento che è stato emozionante, spero anche per chi ci ascolta dalla DOT di Bologna e dalle altre case di detenzione dell'Emilia Romagna. Se avete domande ai nostri ascoltatori tra la città e il carcere, scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e tutti i vostri suggerimenti, anche spunti o anche consigli a Laura e a Pietro per la progettazione futura, li gireremo a loro direttamente. Grazie, grazie a voi, ancora una canzone. Ci vediamo per i saluti finali. Grazie Laura, grazie Pietro. Grazie, a presto. Mille. Grazie a voi, ciao. Bentornati al termine di questa puntata, vediamo gli appuntamenti per le rubriche a seguire. Oggi che è venerdì, ovviamente la spiritualità con Islam, religione e civiltà e una nuova rubrica che si intitola Sorelle in umanità con Suor Lidia, che ci parla dell'importanza di scandire il tempo con delle attività e delle ritualità. E ovviamente poi continuiamo anche il sabato e la domenica, quindi non perdetevi l'appuntamento con Parole Chiave con il nostro arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, dove parleremo della prudenza, e poi Fare Università in Carcere con Alessandra Giovagnoli, che intervisterà Julie Wade, che insegna lingua inglese presso il centro linguistico dell'Ateneo di Bologna. E a seguire c'è la rubrica Parliamo di buddismo con il monaco Zeyun, e a seguire una nuova rubrica che si intitola Calcio e Galeotto, e vi piace moltissimo, perché parleremo dello sport e del pallone che ci unisce. La domenica chef al fornelletto a cura di Fomal, che ci presenta il cremoso di ricotta con biscottini di frolla, e al termine, anzi a seguire, la nuova rubrica per la salute, la mente e il corpo, Yoga Ratna, un percorso di libertà. Vi ringraziamo sempre, io Antonella ed Enea Flacco, e vi ridiamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Grazie. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.